che tra l'altro c'è un posto per cooperante a Gaza e pensavo di provarci. Domani passo a ritirare i moduli per l'application. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:02. Wow, questa è Radio 24. Sono Matteo Caccia e sono qui. È una sensazione strana, però è una sensazione che tutti hanno vissuto prima o poi. È una sensazione che potrebbe essere descritta con i termini come grande stupore o totale spiazzamento. Però credo che la definizione migliore sia traibile dalla locuzione cadere dal pero. Non so se si usa in tutta Italia oppure un'espressione dialettale del nord, però credo che il significato sia molto chiaro, no? Uno cade dal pero quando riceve una notizia che è talmente inaspettata che ti fa rimanere con la bocca aperta, con la mandibola che penzola. Di solito sono notizie che riguardano persone vicine di cui noi ci eravamo fatti un'idea ben precisa, oppure una persona che non conosciamo benissimo ma che eravamo convinti di aver inquadrato. E io ho sempre pensato che lo stupore di quando si cade dal pero abbia due ragioni. La prima è quella semplice e immediata, no? Dello spiazzamento dovuto al fatto che quella persona non è quella che sembra, o non è quella che sembrava, insomma, no? Capita quando scopriamo che la nostra collega di lavoro prima era un uomo, ad esempio, o che il nostro vicino di casa è un ex nazista o un omicida incallito, oppure quando realizziamo che nostro figlio ha fatto qualcosa che non immaginavamo fosse in grado di fare. La seconda ragione, invece, è un pochettino più privata e secondo me è anche più forte dell'altra. Cioè, quando noi scopriamo qualcosa che ci spiazza riguardo a una persona, non ci stupisce solo il fatto che quell'individuo non è quello che sembrava. Stupisce di più il fatto che non è quello che ci sembrava. Cioè, da un momento all'altro, non aderisce più all'idea che noi ci eravamo fatta di lui. E quindi questo mette in crisi la nostra stessa capacità di lettura delle persone, di quelle che ci stanno intorno. E quindi è come se mettesse in crisi noi stessi. Cioè, fa sì che noi ci domandiamo cose tipo: ma se io avevo capito così poco di quella persona, significa che magari intorno a me ci sono persone che non sono quello che io penso che siano. Mettendo in crisi le nostre certezze sull'identità di quella persona, mette in crisi le nostre certezze sulla nostra identità, sulla nostra capacità di comprendere il mondo intorno a noi. Quindi che sia una notizia piccola o gigante, che riguardi una persona a voi vicina o che sia lontana, che sia successa ieri o 10 anni fa, se volete raccontarmi quella volta in cui siete caduti dal pero, io sono qui. Ah, ho capito, così hai conosciuto anche i genitori. Sì. Jules, ci sposiamo. Domenica. Pronto? Pronto? Cos'era Julia Roberts questa? No, era il matrimonio del mio migliore amico. Ok, vedi, ci arrivo ancora. Un film abbastanza brutto, devo dire, in cui lei però cade dal pero perché lui le dice che si sta per sposare. 800240024 per chiamare in diretta, oppure 349-238-6666. Oggi siamo un pochettino così digiuno di notizie perché il GR non è andato in onda per via di un'assemblea di redazione che io una volta o l'altra registriamo, guarda Roberto, i primi 5 minuti e andiamo a sentire cosa dicono l'assemblea, perché secondo me c'è del fermento in un'assemblea condominiale di redazione, un'assemblea di redazione. Però scusate, prima di buttarci nella questione del cadere dal pero, perché ci sono già dei messaggi che sono molto belli, io devo dire che oggi in realtà sono un po' contento che non ci siano le notizie, perché mi sto accorgendo che le notizie che arrivano dal mondo stanno terribilmente entrando nel mio subconscio e nei miei sogni. Io questa notte ho sognato una cosa che mi ha veramente spaventato quando mi sono alzato, quando ho aperto gli occhi. Allora, potresti abbassarmi un po' la base, Roby, scusami. Io ho sognato che avevo il numero di telefono di Gheddafi, che già qui potremmo mandare la musica, però in realtà c'è un motivo perché ho il numero di telefono di Gheddafi, perché ho un amico il cui padre costruiva delle robe per la NATO, insomma uno ricercato in tutto il mondo, vabbè, comunque questo è meno importante. Io avevo il numero di telefono di Gheddafi, cercavo sulla rubrica Gheddafi, lo trovavo e lo chiamavo Gheddafi e lui non mi rispondeva e dicevo boh, ci avrà altro da fare. Poi appena mettevo giù mi rendevo conto, puoi tornare pure con la base Roberto, altrimenti sembra che sono in una tomba, mentre lo chiamavo, questa è perfetta, dicevo ma perché lo sto chiamando? Adesso se lo chiamo penseranno, mi intercetteranno e penseranno che io ho qualcosa da spartire con Gheddafi. Quindi interrompo la chiamata. Passano 30 secondi e Gheddafi mi richiama, ovviamente. Mi richiama, però io non rispondo. Io non sono a casa mia, sono in un albergo e dopo 30 secondi suona il telefono della stanza e la signora della reception mi dice: buongiorno, signor Caccia, c'è una telefonata di Gheddafi per lei. E a quel punto io rispondo a Gheddafi in inglese, parliamo, c'è uno scambio con Gheddafi in cui mi dice: sai, io sono Matteo Caccia, sono amico di quello. Lui mi dice: ah, certo, certo. E gli dico: guardi, mi dispiace perché so che c'è qualche problema in questo momento. E lui mi risponde: dove? E tu che cosa rispondi a uno che si trova in quella condizione e ti dice: problemi? Dove? Io ho messo giù e ho aperto gli occhi, sudato, ed erano probabilmente le 3 di notte. Questo insomma per dire che alla fin fine non è neanche andata così male che non ci fosse il GR, perché credo che questo abbia a che fare con la mia pancia e il mio subconscio. Ma torniamo invece ai messaggi che riguardano quello di cui parliamo oggi, che è l'idea di cadere dal pero. 800240024 349-238-6666. Deborah, ad esempio: quando l'uomo di cui mi ero innamorata mi venne incontro con un sorriso e con le braccia spalancate e gli occhi a cuoricino, mi superò e abbracciò il ragazzo che era dietro di me. Era gay e non lo sapevo. Cesare, quarta liceo. Ah, qui vabbè, entriamo proprio nella memoria infantile. Quarta liceo, 2 insufficienze e un 5 al 6. Io penso: se va bene, mi abbonano 5 al 6 e mi danno 2 esami. Risultato: 4 materie a settembre. Di essere insufficiente anche in chimica, proprio non lo sapevo. Quel pero era bello alto e ho preso una botta. Elisa è un po' la nostra eroina, è l'autrice di Il lungo inverno di Saffron, che ci piace sempre di più anche per questi messaggi. Ostinatamente ingenua, ho creduto che davvero quel tizio mi avrebbe accolta alla stazione di Napoli. Quindi, dopo un lungo viaggio notturno su un treno espresso, sono arrivata alla terribile stazione di Napoli. Terribile, forse Lisa, nella tua memoria è terribile. Non ho trovato nessuno. La mia ostinata ingenuità ha avuto quel che si meritava, visto che erano giorni che gli amici mi dicevano di stare attenta. Sì, sono caduta dal pero. 80024 0024 349 238 6666. Anna. Una sera una mia amica mi dice che quella tizia lì, sì, proprio lei, sì sì, quella spilungona, quella con i fianchi stretti e le mani grandi, sì, la sorella di quell'altra nostra amica, ecco, lei prima era un uomo. 349-238-6666 800240024. Adesso vi spiego per quale motivo io ieri sono gravemente caduto dal pero. La striscia di Gaza è uno di quei luoghi che sono entrati ormai nell'immaginario collettivo, anche se non sai nemmeno cosa sia o dove sia. Tipo Roncobilaccio e Barberino del Mugello, ad esempio. Tipo l'Afghanistan, che sfido tutti a metterlo sulla cartina correttamente. Tipo le Maldive, che esattamente dov'è che sono? O tipo Rio de Janeiro, che non sai nemmeno se sia sopra o sotto l'equatore. Ma anche Novi Ligure, Avetrana. Sono quei posti che se non ci sei stato, o se non sei un cartografo, sì, sai che esistono, ma non sai realmente dove e cosa siano soprattutto. Non sai quanto siano grandi, come siano fatti, chi ci viva, come ci si arrivi, insomma, non ne sai niente. Eppure li senti nominare e li citi quotidianamente, come se sapessi. Succede, io me ne faccio una ragione, solo che a volte mi fermo e mi chiedo: ok, Solzhenitsyn e tanti altri sono stati malati in Siberia, ma la Siberia esattamente dove sta? Oppure dire cose tipo: maledetto quel terremoto dell'Aquila, ma l'Aquila è più a sud o più a nord di Roma? Lo so, sono un ignorante e lo so, però non è che tutti sappiano proprio tutto, no? Cioè, io la cartina di Israele in mente non ce l'ho. La striscia di Gaza non so dove sia, lo ammetto. Voi tutti sicuramente saprete illuminarmi e lo farete con la gioia di quelli che sanno, ne sono certo. Ma la ciccia è che su queste cose io vado a fiducia. Ieri sera ero a cena con Natalie, come al solito. Primo e secondo e anche contorno, che ci piace mangiare e poi sappiamo che possiamo stare alzati un pochettino più degli altri e tempo per digerire ce l'abbiamo. Chiacchieravamo come ci capita, tenendo in sottofondo la radio, che a volte parla però non dice niente. Un po' come essere al ristorante. Una pasta al formaggio, abbastanza buona, fatta da me. E poi un po' di carne. Metto via i piatti e comincio a preparare il carpaccio, che lo so che andrebbe fatto stare nel limone prima, però non avevo tempo e quindi l'ho preparato lì per lì. Parliamo del programma, poi di una sua amica che ha un compagno più vecchio di lei e che forse vorrebbero fare un figlio, solo che la distanza di età è parecchia, insomma si facevano congetture e calcoli tipo quanti anni avrà il papà quando il figlio potrà correre a giocare a pallone, ne avrà abbastanza da non cadere e rompersi un femore. Insomma, Natalie mi dice, ma secondo me è una bella sfida e sono contenta se lo fanno. Tra l'altro c'è un posto per cooperante a Gaza e pensavo di provarci, domani passo a ritirare i moduli per l'application. Ah, ottima la pasta, Matteo, magari ci si poteva mettere del pepe. E io gli rispondo mentre distribuisco il carpaccio sul piatto che in effetti il pepe ci vorrebbe con olio e limone, lo prendo e ne metto un po'. Poi penso anche che ci sono famiglie in cui il papà non c'è nemmeno e che è difficile, ma se c'è l'amore, figurati, la differenza d'età non conta nulla e quindi il figlio secondo me dovevano farlo. Il carpaccio è buono, lo finiamo, poi ci mettiamo a sedere comodi comodi su una poltrona sul divano e io ripenso alla cena e a qualcosa che mi è sfuggito e che non è il pepe sulla pasta. E allora le dico, Natalie, scusa. E lei sorride come se le stessi per chiedere se voleva dello zucchero filato al Luna Park. Scusami, Natalie, ma Gaza... Esattamente, cosa volevi dire? فكر نفسك دبر عيشتنا صار رجع عيش وهالعيش غزة è un pezzo di terra grosso più o meno come l'isola d'Elba. Sta tra Israele e l'Egitto, dove ci sono un sacco di palestinesi con un sacco di problemi. È una zona che ha vissuto decine di casini, invasioni coloniali, cambiamenti di confine. L'ultimo nel 2005, dopo una specie di guerra. Ed è governata non so bene da chi, ma da gente a cui non piace molto Israele e viceversa. Non ne so molto di più, però so che se la passano male e che ogni anno o ogni due anni succede qualcosa tipo bombe. Natalie, tra il primo e il secondo di una cena di mezza settimana, mi ha detto che forse vuole andare a dare una mano a quella povera gente con un'organizzazione di cooperazione internazionale che si occupa dei rifugiati politici e diritti civili. E scusa, quanto tempo durano queste genere di missioni? Le chiedo. Lei non lo sa e mi dice, bah, dipende. Ora, io non voglio fare colonquista, però... Gaza... Io capisco che Natalie voglia fare qualcosa di utile e che stare senza acqua per un mese è una boiata che non serve a niente. E invece lei è una persona seria e non ha paura di nulla, io questo lo so. E in fondo è anche uno dei motivi per cui l'amo. Però... Gaza. E soprattutto, me lo dice quando praticamente ha già deciso. Quindi le chiedo, ma perché non me ne hai parlato prima? E lei mi dice che tanto sarebbe stato inutile, perché io sono un pessimista e lei no. E che comunque ci si sarebbe andati in ogni caso. Non potevo convincerla a rimanere. Il fatto è che io non volevo convincerla a rimanere e questo quindi mi fa ancora più arrabbiare. Cioè, come se lei non avesse fiducia in me. Il fatto è che noi non parliamo mai davvero, perché sappiamo che abbiamo dei caratteri forti e non siamo capaci di cambiare idea, o almeno questo è quello che crede lei. Io però voglio provarci a vedere le cose come le vedono gli altri. Se no, alla fine, che ci stiamo a fare qui, no? Poi non è che si cambi sempre idea, però almeno uno capisce perché le persone fanno cose diverse, insomma ci prova. Insomma, non ne parliamo, io penso, quindi lei vuole andare via da me. Cioè, mica si può stare a casa per un weekend, no? E lei mi dice di no, in quei posti si sta al massimo qualche mese. Allora a me viene in mente la fine di Manhattan, avete presente? Dove Mariel Hemingway e Woody Allen devono separarsi perché lei va a Londra 6 mesi a fare un corso di teatro. E mi ricordo di quanto sia poetica e dolce quella scena. Lui è introverso e cupo ma innamorato, lei invece è aperta, è ottimista e tenta di contagiarlo, quindi mi commuovo ogni volta che la vedo, quando la rivedo quell'immagine. Però Natalie non è contagiosa e d'altronde non posso chiedere di essere come nel film, no? In fondo io mica sono come George Clooney in ER, uno che salva il bambino sorridendo. E siccome Natalie è una persona dolce, una persona per bene, dopo una mezz'oretta che mi ero incupito sul divano, si è venuta fuori con una frase tipo... Ma no, dai, scherzavo, era un'idea così. Mica ci vado a Gaza, dai, non fare il musone. E però tra me e me mi sono detto che ci aveva pensato. Ci aveva pensato ad andarsene via per qualche mese. Io non l'avrei mai fatto. Però ho fatto il superiore e ho sorseggiato il mio chinotto mentre guardavo Discovery Channel. Però Gaza. Devo prendere l'aereo. Andiamo tu. Andiamo. Non devi andarci per forza. Oh, non potevi dirmelo la settimana scorsa. 6 mesi. Senti, 6 mesi non sono tanti. E non è che tutti si guastino. Bisogna avere un po' di fiducia, sai, nella gente. Questa scena è la scena di Manhattan di cui vi parlavo prima. Magari la postiamo dopo sul profilo Facebook Matteo Caccio, io sono qui. Sul profilo Facebook anche però abbiamo caricato il video del pezzo di prima, che è un pezzo veramente tamarro. Ma se andate a vedere il video realizzate quanto si può essere splendidamente tamarri. Il cantante è una cosa che se ti dice che esiste, se ti dicono che esiste non ci credi. Poi lo vedi lo vedi e cadi dal pero. Mi dicono di là della regia che è uno dei più famosi rocker algerini, che si chiama Rashita, ok. Si cade dal pero per diversi motivi. Piero scrive: cado dal pero per il grande successo che mio figlio ha con le donne, e mio figlio ha 22 anni. Sono caduto dal pero la volta in cui a 16 anni ho scoperto che gli uomini la fanno in piedi parlando con un mio amico. Che smacco, tumbu. Credo che lui sia un maschio, evidentemente, per forza, perché altrimenti non si capisce lo smacco. A Modena cadere dal pero significa svegliati. Beh, però è più o meno la stessa cosa, però ribaltata. Qua mi scrivono che anch'io ho fatto lo stesso sogno, però in cui il protagonista era Saddam, va bene. E poi, ciao, 16 anni, ascolto Radio 24 e sono caduto dal pero quando un mio amico mi ha detto che si trasferiva. Saluto il mio collega di lavoro. A 16 anni. E poi, ciao, sono Federico, pur io come ragazzo di ieri sono molto giovane, ho 12 anni. Mi è capitato di innamorarmi di una ragazza e le piacevo pure, ma ieri ho saputo da un mio amico che lei si è messa con un altro. Posso dire proprio di essere caduto dal pero. A questo proposito, visto che ieri abbiamo chiamato Francesco, che era un ascoltatore tredicenne, giusto? Aveva 13 anni Francesco. È arrivato, oltre a questi messaggi, un messaggio che dice: ciao Matteo, ti ascolto tutti i giorni dalla macchina insieme a mio figlio Luigi di 12 anni mentre andiamo a prendere l'altro mio figlio di 11 a scuola. Luigi è stato molto felice di sentire ieri Francesco di 13 anni e si è sentito completamente identificato. Chissà quanti fan della scuola media ci sono in ascolto. Guarda, non lo so Maria, e un po' mi stupisce. Sappi che non si perde i tuoi racconti. Addirittura è capitato che una mamma gli abbia offerto un passaggio per andare alla lezione di clarinetto e Luigi ha risposto: ok, ma solo se possiamo ascoltare Radio 24 dalla macchina. Allora io vorrei fare un appello, perché a me sembra ancora incredibile questa cosa. Se ci sono degli ascoltatori al di sotto dei, facciamo 16, facciamo 15, no 16 dai, al di sotto dei 16 anni all'ascolto, anche se non sono caduti dal pero, mi mandano un messaggio al 349-238-6666 e mi dicono chi sono, il nome, dove sono, quanti anni hanno e perché ascoltano Radio 24 o perché ascoltano questo programma. Così è una veloce indagine statistica. E oggi poi, prima di andare in onda, su Facebook è arrivato questo messaggio di Tiziana: un mio ex collega, apparentemente tutto lavoro e famiglia, un bel giorno ha pensato bene di costituirsi indebitato e forse con qualche rimorso, perché 10 anni prima aveva commesso un omicidio in un sexy shop. Pronto Tiziana? Pronto. Ciao, come stai? Ciao, bene, grazie. Grazie per essere qui al telefono. Tiziana, che lavoro fai? Sono impiegata. E lui che lavoro faceva? Lui era un agente di commercio nella ditta dove lavoravo. E da quanto lo conoscevi? Ma qualche anno, era un po' che lavorava con noi. Ed era la tipica brava persona? Un uomo apparentemente senza macchia. Sì. Senti, che aveva famiglia, figli? Aveva moglie, una bimba, aveva anche la foto di sua figlia sul desktop del computer. Beh, quello lo immagino. Di dove sei, scusami Tiziana? Di Modena. Sei di Modena, ok, perché dal desktop del computer un pochettino si era capito. Senti, com'è successo? Poi lui un giorno semplicemente non è venuto al lavoro? Si è licenziato dicendo che sarebbe andato a lavorare nell'edicola di suo fratello. Siamo andati tutti a cercarlo nell'edicola per andarlo a trovare e lui non c'era. Poi un bel giorno mi hanno chiamato dicendo: mi prendi il giornale perché il tuo collega si è costituito perché ha commesso un omicidio. Ma subito non ci credevamo, cioè pensavamo che fosse un omonimo perché era incredibile la cosa. E invece era proprio lui. Quanti anni fa erano? Ma è successo 2 anni fa. Quindi lui è ancora in carcere? Sì, adesso 16 anni gli hanno dato. Wow. Sì. In carcere ascoltano la radio, però non possono mandare messaggi. Peccato. Niente, Tiziana, ti ringrazio molto per il tuo racconto. Ti auguro una buona giornata. Ciao, alla prossima. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. C'era un altro messaggio. Sono incinta. Me lo disse mentre ancora stavo aprendo la porta del mio appartamento da single. Andiamo sempre a Modena, da Rosa Maria. Pronto, Rosa Maria? Ciao. Ciao, com'è il tempo a Modena? Cosa succede oggi a Modena? È bellissima, una bellissima giornata. Cosa succede che tutti cadono dal pero a Modena? Cadono dal pero. Tu come sei caduta e perché? Ma io sono caduta dal pero perché mi sono accorta, insomma, sono molto a conoscenza che una mamma con cui condividevamo il percorso del nido dei nostri figli, sono venuta a conoscenza che faceva dei filmini hard. E allora come ne sei venuta a conoscenza, Rosa Maria? Mentre una collega mi ha invitato a prendere un caffè dicendomi: ti porto in un bar a prendere il caffè dalla Pornodiva. E quando sono entrata ho visto questa persona e sono rimasta molto spiazzata, perché io la conoscevo come mamma, ma con cui ho condiviso un percorso. Certo, ma questo ha cambiato il tuo modo di vederla? O... Più che altro mi ha suscitato tante domande del tipo: cioè? Perché uno arrivi a fare un, non so, dei filmini così in quanto mamma? Ma, scusami, ma questa cosa era precedente alla maternità? Non lo sai, non lo sappiamo. No, questa cosa era dopo che, insomma, la signora aveva già avuto, insomma, un figlio. Un figlio, ho capito. Quindi la cosa mi ha piaciuto moltissimo, insomma, come ruolo che uno ricopre, insomma. Tu che cosa fai, Rosa Maria? Io lavoro nella pubblica amministrazione. Guarda, ma hai fatto prima o dopo? Hai cominciato prima o dopo avere dei figli? E io ho cominciato, in che senso, scusa, non ho capito. Cioè, hai cominciato a lavorare nella pubblica amministrazione prima di avere bambini, sì. Prima, sì. Ok, prima, quindi comunque hai la coscienza pulita. Moltissimo. E allora mi chiedevo come una persona possa agire, visto che il ruolo, insomma, cioè non parlo con dei preconcetti. Però fatto mentre una persona è anche mamma, forse dovrebbero entrare in atto, guarda, alcuni meccanismi. Facciamo, che, sai cosa, secondo no, me non giudico nessuno. Ne parliamo con il figlio tra 10-15 anni e vediamo se sta bene oppure no. Infatti direi proprio questo. Rosa Maria, grazie mille, buona giornata. Grazie a te. Ciao, grazie. Ciao. Adesso la borsa e dopo addio sono qui, cadiamo dal pero. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Io sto qui. Nella foto di oggi invece siamo in India, oserei dire. C'è un uomo su una gradinata, è seduto sui gradini per terra, tiene in mano un archetto e uno strumento musicale che credo sia una sitra. Non lo sappiamo, ma immagino di sì. È vestito esattamente in quei modi che gli occidentali dicono è elegantissimo, ma non si vestirebbero mai così. Ha in testa un turbante arancione, ma non credo che sia un Sikh. Ha una sciarpina azzurra, una camicia grigia, dei pantaloni sporchissimi ma bianchi, e ha una bella faccia. Sta pensando a qualcosa, boh, forse solo a cosa mangerà stasera per cena. Simone Bernardi, 27 anni. All'uscita da un tempio di Udaipur, Rajasthan, India, un uomo cerca di vendere i suoi CD sulla scalinata d'ingresso, ma si lascia ipnotizzare lui stesso dalla propria musica e resta infiniti attimi con gli occhi chiusi e l'aria serena. Io ero lì e un po' mi manca, ma adesso io sono qui. Tu pensa alla mia capacità di lettura, no? Vedo la faccia di questo che è in una sorta di trance e dico: forse sta pensando alla cena di stasera. Benissimo, Aurora, in quarta elementare, un bel pomeriggio, si parla di cadere dal pero, si continua a farlo. Mio padre mi viene a prendere a scuola, camminando a un certo punto mi disse: ma Aurora, tu lo sai vero che Babbo Natale non esiste, siamo io la mamma? E io, per farla grossa, dissi anche: certo papi, lo sapevo. E poi scrive: grazie. Giulia, rivelazioni casuali da terzi. Sì, sì, io sono amica di Marta. Ma Marta chi? Quella che sta con Marco? Marco? Ma se fino a due giorni fa stava con me. 800240024 349-238-6666. Andiamo nella provincia di Fermo da Angelita. Pronto? Sì, sono io, buonasera. Ciao, Matteo. Ciao, buonasera, buongiorno. Angelica o Angelita? Angelita. Sono spagnola. Perché sei spagnola? Di dove? Sì, di Barcellona. Di Barcellona, quindi sei catalana. Esatto, però io mi considero castigliana, va. E come mai? È perché le mie origini, cioè, sono tantissimi anni che ho lasciato la Spagna, per cui allora si parlava molto il castigliano, non si parlava il catalano, anche se sono nata a Barcellona. Da quanto tempo vivi in Italia? Ho tantissimi anni ormai, sono la bellezza di 38 anni. E perché, però... perché nella provincia di Fermo? Questo è un dilemma. Dunque, io sono spagnola, cresciuta in Francia, in Australia, e poi conosciuto il mio ex marito in Australia. Lui era un pierisino piccolo del Fermano e ritornammo qui nelle Marche e sono rimasta affascinata dall'Italia, innamoratissima. Anche dopo il matrimonio, mi sembra di capire. Sì, solo dell'Italia però. Senti Angelita, dimmi che cosa ti è successo che ti ha fatto cadere dal pero. Allora, è successo questo: io collaboro per una radio privata qui nel Fermano, che no? Si chiama? È Radio Out. Okay. Con Giancarlo Guardabassi, forse l'avete sentito, Guardabassi, Giancarlo, no? No, Giancarlo no, però Radio Out, quando si passa da quelle parti, tipo, anche se c'è Radio Bruno che è un po' più forte da quelle parti, sbaglio? Sicuramente, la nostra è adattata. Insomma, comunque, tu lavori, cosa fai in questa radio, sei conduttrice? Dunque, faccio la collaborazione, i notturni, praticamente, collaboro con la radio, faccio i notturni e parlo con i vecchietti, insomma, i nostri ascoltatori sono abbastanza avanti con gli anni. E cosa ti è successo? Però, carini. Allora mi è successo questo, visto e considerato il tipo di lavoro che faccio, tipo la speaker è troppo grossa la parola per me, insomma collaboro. Ok, dico. Ok. E quindi si crea un po' di amicizie, di conoscenze con questi ascoltatori, quindi a volte ti insistono, insistendo, vieni a prendere un caffè. Angelita, io andai a prendere un caffè da una signora milanese molto carina che interveniva spesso in radio, quindi sì, si crea la conoscevi questo... insomma, come se la conoscessi. Come se la conoscesse, sì, perché molto è. E poi andai a trovarla in questa villetta a pian terreno, molto carina, bionda, bellina, insomma, simpaticissima, no? Finché? Al che, mentre stavamo prendendo il caffè, suona la porta, è normale, una cosa può succedere, no? Che uno suona la porta. Sì, di solito sì. Mi disse, Angelita, vieni un attimo in cucina e stai qua per 5-10 minuti. Io mi chiuso in cucina, io rimase un attimo sperduta e rimase lì seduta in cucina. Dopo 5-6-7 minuti così riaprì la cucina e ha detto, dice, è andato via adesso sto cliente. Dico, come sto cliente? Ha detto, dice, perché non lo sapevi? Dico, no. Ha detto, io sono una prostituta. E lì mi cadde proprio dal pelo. Senti, ma scusami, ti faccio la stessa domanda che ho fatto all'ascoltatrice di prima. Questa cosa ha cambiato il tuo modo di vederla o vi siete rifrequentate? No, assolutamente. Io sono di larghe vedute. A Lione ce ne sta un anno in angolo, per cui non... Immagino. No, però francamente in quel contesto... Rimasi un po' spiazzata. Così. Tra l'altro, Angelita, la cosa meravigliosa è che tu sei spagnola, catalana, castigliana, però alla fine mi parli un pochettino della provincia di Fermo e quindi evidentemente questi 38 anni in Italia non sono invani. Ti hanno lasciato un segno. Grazie mille, buona giornata, sì, ciao, Angelita. Buona serata, ciao, grazie. Andiamo a da Marcello, a Milano. Pronto, Marcello? Pronto? Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Ciao, molto bene, grazie. Senti, mi dicono che facevi le prove prima al telefono. Ma in realtà stavo parlando con mia moglie e stavo raccontando della notizia assurda. Ah, ok. Quindi... Senti, dimmi perché sei caduto dal pero oggi, tra l'altro. Oggi tra l'altro ho scoperto oggi che un mio maestro delle medie, che tra l'altro ho anche rincontrato poco tempo fa su LinkedIn, quindi avevamo voglia proprio di rincontrarci tutto, ho scoperto oggi che è stato arrestato per omicidio. E chi ha ucciso? E ha ucciso un tizio a cui sembra che o doveva dei soldi o doveva ricevere dei soldi da questo tizio qua, per un debito sostanzialmente, quindi non si capiva bene dalle notizie. Era una persona per bene, tu te la ricordi come tale? Assolutamente, assolutamente. Ho anche delle foto, mi ricordo quando ero piccolino, con questo gigante che guardava noi nanerottoli alti sotto la sua cintura, e chiaramente il ricordo di lui è con estremo affetto. Nonostante tutto, Marcello, ti ringrazio molto. Buona giornata. No, ciao, grazie. Rimaniamo in tema di omicidio, però non riguarda le persone in questo caso, andiamoci piano, giustamente Bonini mi segno con la mano. È una storia molto triste, ma anche molto bella. Questa è una storia davvero molto triste, scrive Francesca. Quando ero bambino, il nonno portò un giorno me e mia sorella alle giostre e io, per la prima volta, tornai a casa con un delizioso pesce rosso vinto al tiro al bersaglio. Il suo nome era Berzot. Berzot nuotava nella sua boccia, mangiava il suo mangime, faceva le boccacce e la mattina dormiva a pancia in su. Dopo un paio di settimane, tornata da scuola, trovai la sua boccia vuota, pulita, a scolare. Sgomento, dov'era Berzot? Mia nonna con grande dolcezza mi spiegò che si sentiva solo lui e per questo lo avevano accompagnato in un rigagnolo vicino al semaforo dove lui aveva raggiunto i suoi amici pesci in mare. Era giusto così. Lui era felice nel suo mondo marino e io anche. Col tempo l'ingenua innocenza di bambina aveva chiaramente lasciato al posto la consapevolezza che Berzot era passato a miglior vita, probabilmente nello sciacquone dello scarico. Molti anni dopo però, durante un pranzo di famiglia piuttosto ridanciano, ho scoperto con orrore che Berzot non era solo passato a miglior vita, ma era stato sostituito quotidianamente da 15 pesci rossi vittima della stessa drammatica sorte. Mentre tutti si scompisciavano dalle risate, io con la mandibola alle ginocchia osservavo la scena e mi sentivo tradita e pensavo alla dinastia di pesci rossi che avevo involontariamente sterminato. Questa è Francesca della storia di Berzot, la storia di cadere dal pero. Abbiamo solo un minuto per chiudere perché sono arrivati un sacco di messaggi di 12, 15, 13 anni, Martina che ascolta, non mi ricordo più da dove, e poi c'è Chiara, 13 anni e ti ascolto, e ne abbiamo preso uno, Federico da Udine. Pronto Federico? Pronto. Ciao, come stai? Bene, bene. Scusami che ti ho fatto aspettare Federico. No, no, tranquillo. Quanti anni? Grazie. Quanti anni hai? È un piacere ascoltare. Quanti anni hai Federico? 12. Hai 12 anni, che cosa fai, la seconda? E tu che radio ascolti? Cioè, innanzitutto, a 12 anni si ascolta la radio? Di solito i miei compagni non tanto. Ah. E a volte anche mi prendono un po' in giro, ma a me più di tanto non mi interessa. Ma tu, scusami Federico, non ti senti anziano perché ascolti la radio? No, per nulla. Bravo, ascolti solo Radio 24 o anche altre? No, mi piace soprattutto questa radio, poi ogni tanto cambio canale, cerco altre trasmissioni. Dimmi che cos'altro ascolti oltre a Radio 24, Federico. Ma ascolto qualche radio con della musica, radio DJ, ma soprattutto questa. Ha detto radio DJ, accidenti. Ascoltami, dimmi invece quello che ascolti a Radio 24 oltre a Io Sono Qui. Mi piace molto la tua trasmissione, ma ascolto anche Melog al 2.0 alle 10 di nascosto. Come di nascosto? A scuola? No, di sera in realtà. Ah, ma e perché di nascosto? Perché Nicoletti dice un sacco di porcherie. No, ma non tanto, ma perché i miei genitori mi mandano a dormire presto. Ah, ok, solo perché devi stare sveglio e non potresti. In pratica prendo la mia radio, la metto sotto il cuscino e inizio ad ascoltare. Sei un genio, Federico. Sei un genio, sì, sei riuscito dagli anni 70. Senti, Federico, dimmi che cosa stavi studiando oggi. Stavo facendo i compiti di inglese per domani. Di inglese, ok. Dimmi una frase in inglese, ce l'abbiamo? No, va bene, Federico, ti ringrazio molto, continua ad ascoltare, rimani lì, buona giornata. Certo, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Chiudo con un altro messaggio che riguarda le cadute dal pero, ed è un messaggio che mi ha scritto Laura. Sì, proprio oggi sono caduta dal pero. Non mi aspettavo un messaggio di solidarietà da parte dei miei colleghi. Uno di loro scrive a nome di tanti altri queste parole e la mail mi è arrivata un quarto d'ora fa. Care Paola e Laura, avendo ricoperto un simile ruolo nel passato e sapendo benissimo che è un ruolo pesante e qualsiasi cosa uno faccia è comunque soggetto a critiche da parte della direzione aziendale, dei dirigenti e anche dei dipendenti, soprattutto nei momenti delicati come questi, vi ringrazio per tutto quello che fate. Ecco, oggi per la prima volta nella storia dell'azienda in cui lavoro i dipendenti sciopereranno. Mezza giornata, si intende, ma sciopereranno. Sciopereremo tutti. Dopo 2 mesi di mancato stipendio abbiamo deciso di dare un segnale forte con tutto ciò che questo comporta in un'azienda a capitale controllato dai soci. I rischi ci sono, per esempio quello di essere additati, fatti da parte, se non proprio fuori. Io e la mia collega ci siamo fatte portavoce dei dipendenti, 97 persone, e stiamo andando avanti sostenendo questa strada da 10 giorni a questa parte. Siamo molto combattuti, tutti, perché conosciamo bene la direzione e buona parte di essa la stimiamo e abbiamo nei loro confronti un rapporto di sincera amicizia lavorativa. Ecco, oggi è un giorno storico, un punto di non ritorno. Spero di non perdere il lavoro, spero di non danneggiare nessuno, spero che tutto andrà per il meglio. In questo momento stanno fioccando mail ufficiali di adesione da parte di molti dipendenti. Siamo già alla metà, non me l'aspettavo. Ecco, un in bocca al lupo è gradito. Ciao. Laura. Grazie a Stefano D'Andrea, a Roberto Scaltritti, a Tiziano Bonini e a Viola Bottoni. Grazie anche a Michele che mi scrive: sono caduto dal pero quando mia nipote di 10 anni, nata e cresciuta a Londra, mi ha chiesto: beh, what's the Italian for pizza? Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?